a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia... La radio poi si cazzeggia, eh. No, sì. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ci ha detto Ibra Romagnoli, io ci spero, perché con Ibra si diventa candidati a vincere lo scudetto. Ibra è un giocatore del PSG per il momento. I sogni sono desideri chiusi in fondo al cuore. Per quanto riguarda Ibrahimovic, questo non ti so dire, ma sicuramente Ibrahimovic è un giocatore che sposta equilibri, e se dovesse venire sicuramente anche noi diventiamo uno dei pretendenti per vincere il campionato. Fisicamente sto anche abbastanza bene, devo soltanto allenarmi con la squadra adesso. Götze rappresenta sicuramente questo profilo, però è un giocatore del Bayern Monaco a tutti gli effetti, per cui evidentemente noi non abbiamo avviato una trattativa concreta. Chiaramente nei nostri compiti, nella nostra attività, c'è quello anche di fare dei sondaggi. Di sicuro Draxler è un giocatore che ha un ottimo profilo, ma è un giocatore dello Schalke 04, quindi è evidente che prima di arrivare vicini al traguardo dipende proprio da ciò che loro decideranno. La Juventus ha preso Hernane sull'operazione da 11 milioni di euro, titolo definitivo, ricordiamolo, anche 3 anni di contratto per Hernane a 2,7 milioni di euro. Oggi è uno dei giorni più divertenti dell'anno, tanto che c'è Giuseppe Cruciani con le palette. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come stai? Ciao. Bene, bene, non c'è male. Hai portato le palette per i voti? Ma basta con questi voti. I voti non contano niente, dai, su, è un gioco, no, lo fanno tutti, però ci sono quelli arrabbiati, che sono i tifosi del Napoli, che sono i tifosi... Ma come cazzo si fa a essere arrabbiati a settembre, il primo settembre? Ma se sei arrabbiato a maggio che fai? Distruggi la città, cioè, metti a ferro e fuoco i casini autostradali, cioè. Anche quelli del Milan non sono contenti. Primo settembre. Quelli del Milan non sono contenti. Ragazzi, calma. Hanno sognato Ibrahimovic, cioè, si ritrovano Balotelli, hanno sognato. Ma io non so, ho sognato. Cose. Ma non si può essere arrabbiati. Io sono contrario al fatto che un tifoso possa essere arrabbiato il primo settembre. Se un tifoso in Europa c'è un tifoso arrabbiato il primo settembre, no, solo in Italia. Ma vi rendete conto o no? Dopo 2 giornate, dopo il mercato, ci sono già tifosi arrabbiati. Ma di che stiamo parlando? Calma. Intanto calma, spesi 600 calma. Milioni di euro quest'anno, tornate le vacche grasse. Meno male, si muove il mercato, si muovono i soldi. Chissà se poi ci sono quei soldi, perché molti sono con gli sgami del prestito, diritti di riscatto. Sono sempre le banche, vediamo se poi si paga. Intanto io sarei curioso. Ma Pier dov'è? Al telefono. Ecco, io sto qua, ci sei? Sei cazzo, lì. Come al solito. Dove sei? Qua, sono qui, sono in macchina. Ma dove? Non si sente. Sei con l'auricolare, sei con l'auricolare. Non sono con l'auricolare, signor Cruciani. Come va? Ma molto bene, ma non si sente, continua a dire che non si sente, però vabbè, uguale, che me frega, mica la zanzara, è roba lo vostra. Lo dai. Ma no, ma io non so, forse devo alzare il volume io. Sì, prova. Prova. Vai, quanto hai fatto ieri sera? Quanto hai fatto? Abbiamo fatto l'8,79-80 copertate. Molto deludente, deludente. Nessuno dice perché più della puntata precedente dove c'eri tu, ma con te avremmo fatto anche di più. C'era il mercato, eri favorito dal mercato. Abbiamo visto la puntata. Ma io vedo sempre. Tu non hai capito ancora che io ho 2 busti a casa. Uno è quello di Marchionne e l'altro è quello di Pardo. Cioè, sono 2 busti. Lo sai che esistono dei busti di Pardo in giro? Sì. Cioè, voi non lo sapete? Sì, l'ho visto. Ho visto uno che fa di solito i busti a Milano, che ha un busto cinese. Di Pardo. Un cinese, da cui mi rifornisco io, che è grande appassionato di calcio e vede tutti i programmi, eccetera. Che ha fatto un busto di Pierluigi Pardo, quartiere cinese a Milano. La statuetta del presepe c'è già? No, la statuetta del presepe. Per ritirarlo dal mercato, il presepe c'è o no? C'è? Cioè, De Luca mi dice che c'è. È arrivato anche il busto del cinese di Milano, che ha fatto il busto di Marchionne, ha fatto anche il busto di Pardo. Eccezionale. Eccezionale, però devo dire la statuetta del presepe, ringrazio il cinese per il busto. però la statuetta va veramente emozionata, perché poi ci ha fatto capire che a Napoli è una cosa proprio di grande tradizione. Comunque, detto questo, c'era un suo mito, credo, no? Un mito di tutti noi, che è Sandro Nesta, giocatore straordinario, sì, sì, allenatore, certo, del Miami, che società. Io non ho miti, non ho miti, però Nesta, Nesta sicuramente è stato un... E Marchionne no. Marchionne sì, Marchionne mi è mito, è mito, è un grande, basta, è un grande. Senti, ma posso chiedervi una cosa, entrambi? Una cosa che vorrei sapere da, sì, dagli ascoltatori e dai tifosi. Dì. Ma questo Hernanes, altro giocatore che conosci bene, sì, che parliamo di cose serie, va alla Juventus, si riapre questo canale da tempo, allora, interrotto. Parlo prima io e poi parlo perché non si sente niente. Solo perché non si sente niente, per carità, perché poi tu sei qui, sei padrone di casa. Allora, la questione è molto semplice. Hernanes è uno che tira le punizioni, tira i rigori. Alla Juventus in questo momento i rigori, sicuramente c'è un rigorista, eccetera, non c'è nessuno che segna su punizione. Questa è una cosa gravissima, perché la Juventus ha risolto molte partite anche negli anni scorsi con le punizioni. Dunque, sicuramente da questo punto di vista è un grande acquisto. Hernanes ha segnato molti gol su punizione, uno specialista, serve come il pane, sarebbe servito contro Udinese, sarebbe servito contro la Roma, dove ci sono state un paio di situazioni simili. È evidente che un acquisto fatto il 31 agosto all'ultimo secondo ha il sapore del rimedio, su questo non c'è dubbio. Uno può dire, la riserva dell'Inter, cioè, va alla Juventus dove si presenta come quello che dovrebbe sostituire Pirlo, però l'errore è in partenza, cioè non c'è nessuno che possa sostituire Pirlo, diciamo la verità, per cui bisogna ripensare un po' tutto. Da questo punto di vista Hernanes dietro le punte, anche se secondo me un secondo è sostanzialmente un secondo attaccante, può sicuramente dare qualcosa in più. Il fatto che sia stata riserva dell'Inter non conta niente, magari è una posizione sbagliata, nel momento sbagliato. Pier, sì, però tu immagina se Hernanes va alla Juventus e rinasce come giocatore, ma è già rinato. Hernanes è già rinato, l'ultima parte e quindi i tifosi dell'Inter come la possono prendere? Ma io fossi stata l'Inter l'avrei evitato, tra l'altro avrei evitato di darlo alla Juve, poi è chiaro che 11 milioni non fanno schifo, però secondo me l'Inter perde relativamente poco per l'equilibrio che stava trovando in campo, ma la Juve guadagna molto. Secondo me il centrocampo con Hernanes, Marchisio e Pogba è un centrocampo di alto livello, quindi secondo me la Juve aveva un problema, era in una situazione di forte imbarazzo dopo la chiusura negativa dell'affare Draxler, ed Hernanes è una ciambella che l'Inter le ha in qualche modo consegnato, pagata 11 milioni di euro, però è una bella ciambella di salvataggio. Ti ricordi cosa disse Hernanes quando arrivò all'Inter? Vabbè, ma queste sono stupidaggini, cioè, sono orgoglioso di stare nel... Lo ricordi? Facciamoli sentire. L'altra cosa sarebbe che anche l'Inter non ha mai stato tra gli scandali che hanno avuto qualche anno fa, quindi perché questo quello mi fa pure piacere, perché io sono una persona che voglio stare lontano delle polemiche, voglio sempre pace. Pace, amici. Allora, io dico una cosa, Hernanes, perché me l'hanno detto un sacco di persone che lo conoscono personalmente, è un professionista pazzesco. Cioè è uno che non pensa alle femmine, non pensa forse alle macchine, sì, non lo so, ma insomma non ha grilli per la testa, al di là della sua fede, questo è poco importante, però è uno estremamente professionale, uno che pensa soprattutto al suo fisico, a stare bene, a giocare, questo è la migliore garanzia. Sai, poi quando si arriva in una squadra si fanno anche scivoloni come questo, perché comunque uno scivolone che ti frega di metterti a parlare dell'onestà, squadre pulite, la Serie B, eccetera. Quando sei preso da una conferenza stampa dici delle cose per compiacere un po' i tuoi tifosi. Questo capita ovunque, non è che ha detto Juve merda, schifosi, ladri, maledetti, ha detto sono contento di stare in una squadra che non è mai stata in B, avuto problemi. Io sono una persona onesta, non ha mai fatto riferimento alla Juventus. Adesso francamente prendersela con Hernanes sarebbe stupido da parte dei tifosi della Juve. Ma no, ma assolutamente, però insomma sappiamo che c'è suscettibilità un po' da parte di tutti, soprattutto su quel tema. È chiaro che questa cosa fa notizia, per cui insomma non mi sorprende, non penso che abbiamo fatto male nel riproporla adesso. Assolutamente, per carità. Delle volte sai, i giocatori, secondo me, per compiacere Quello un certo tipo prima. Di pubblico, poi sai, magari gira e finisci a giocare dall'altra parte. Insomma, detto questo, io su Hernanes sono. A me Hernanes è molto simpatico come giocatore e mi piace anche, mi piace molto. Mi sembra un giocatore di grande potenziale che all'Inter non è stato capito del tutto. Ripeto, per la Juve è un grande colpo. No, soprattutto per la professionalità del giocatore. È evidente che poi in una squadra può riuscire, non può riuscire per mille motivi, ma sicuramente la Juventus ha preso un giocatore di una grandissima professionalità, che ha grande voglia, e poi sai, le ciambelle possono riuscire o non riuscire, questo dipende da tante cose, dipende quanto gioca, quanto non gioca. Sicuramente uno che ha bisogno di giocare, cioè non è uno di quelli che puoi utilizzare a mezzo servizio, è uno che ha bisogno di giocare con continuità, ha bisogno di trovare sinergia con i suoi compagni, sapere dove può trovare un compagno per dargli la palla, è uno che ha bisogno di stare sul campo. Alla Lazio giocava sempre quando poteva, certo, giocare, perché è lì che ha, no, che è riuscito di più. D'altra parte Allegri è un anno e mezzo, è un anno che chiedeva un trequartista, gliel'han preso l'ultimo giorno di mercato. Sì. Dopo un anno di lamentele. Non so, lamentele no, non si lamenta mai Allegri, è un grande aziendalista. Non si lamenta mai, magari in pubblico, ma però no, ma non è ha uno. Chiesto un giocatore che era un trequartista. Un anno, non credo, ha fatto la fine di Champions League. No, un anno, senza, un anno è dall'anno scorso che chiede un trequartista, gliel'hanno preso ora il 31 agosto. Traffico 800240024, numero verde, poi parliamo anche dell'Inter. È da scudetto l'Inter con quelli che ha preso? Non credo. Bah, chi è da scudetto? Oggi credo che ci sia una nuova squadra in campo, adesso non lo dico per scaramanzia, ma è la realtà. Se uno guarda al panorama, alla situazione, come dire, in giro, vede una squadra che è di gran lunga superiore alle altre. Le altre sono tutti dei cantieri, tutti cantieri. Milan, non ne parliamo, Inter, cantierissimo. Juventus, sappiamo, abbiamo detto in lungo e largo. C'è una certezza che è la Roma. Ora, voglio dire, va bene, può succedere di tutto, però pensare che la Roma non fra qualche giornata, ho visto anche il calendario, non abbia almeno 3, 4, 5 punti di vantaggio sulla seconda, o comunque su una delle potenziali seconde, questo insomma mi pare francamente sarebbe una sorpresa a questo punto. Sì, a Pardo, di togliere il telefono da quella custodia per non farlo bagnare, perché non si capiva niente. Tutti convocati. Tutti convocati. Nell'ultimo giorno del Condor, dove il film e non è il Condor, l'uccello rapace, ricordiamolo sempre. E questo era il Condor Galliani, che non è riuscito a prendere Soriano l'ultimo giorno, ma non c'è riuscito neanche il Napoli. Questo è un altro mistero buffo, un'altra storia buffa. È incredibile adesso, Pier. Nel 2015 non funziona affatto. Ti rendi conto di una cosa? Allora, va benissimo il romanticismo, le porte che si chiudono, gli alberghi, il sapore antico di un calciomercato che non c'è più, che tenta di essere riprodotto in miniatura in un mondo che è cambiato. D'accordo, va bene, le porte, bellissimo per la televisione, la chiusura del calciomercato. Ma io dico, un affare è chiuso. Ci sono le firme da mettere, per carità. Basterebbe con l'accordo, con le firme di due capi, no? Di due capoccia, da una parte e dall'altra del giocatore, comunicare via mail, se non addirittura via WhatsApp la chiusura di un accordo. Va bene, è troppo facile, ci possono essere ripensamenti, però quando le tre parti sono d'accordo, basterebbe la comunicazione di una mail. Ma perché portare la busta non so dove? Ma vi rendete conto della follia? Cioè, ma adesso, è stato anche De Gea adesso non Reale, so se è per questo. Questo poi c'è sempre una cosa molto italiana, che è veramente arrivare all'ultimo secondo, perché insomma. Vabbè, non è solo italiana, dai, i colpi all'ultimo secondo li fanno un po' tutti, è normale che... Ma adesso, questo è un altro discorso, ma la follia è che chiuso un accordo uno non lo possa comunicare con i mezzi più veloci che esistano, e non con col commesso viaggiatore, dai. Col piccione. Luca Marchetti, da Sky, ciao Luca. Posso intervenire? Certo. No, ma io capisco che tu hai delle obiezioni su questo, Luca, so che hai delle obiezioni. Ho delle obiezioni, perché si può fare via mail. No, beh, cioè, come, in che senso si può fare via mail? Puoi mandare il contratto via mail, esattamente come stai dicendo te, si può mandare il contratto via mail. Il Napoli e la Sampdoria non hanno mandato nessuna mail. Quindi l'accordo con il giocatore non era definitivo. Cioè, c'erano ancora delle cose da risolvere, dici? Assolutamente sì. Ed è sono relative alla complessità dell'accordo del Napoli. Perché ci avete raccontato per tutta la giornata di ieri che in realtà c'è stato un problema di trasporto, di busto e cose di questo tipo? No, non so chi hai sentito e dove l'hai sentito, ma il problema di busto non c'è mai stato. C'era un problema, l'accordo c'era fra Napoli e Sampdoria, fra Napoli e giocatore, poi bisogna firmarli i contratti. E tu sai che se devi firmare un contratto con il Napoli bisogna che ti leggi bene tutto quello che hai scritto. Nel leggerlo si è capito, siccome l'accordo è arrivato alle 10, non bastava un'ora per leggere le 200 e rotte pagine del contratto del Napoli. Ah, per cui ci sono i diritti là di immagine. I diritti di immagine e tutti questi orpelli. Non è stata una questione come a Story, che a Story non ha accettato il diritto di immagine perché era sponsor tecnico, non mi ricordo chi e dove era rescindere. Cioè, non è mancato questo tempo tecnico. Soriano era d'accordo su tutto, solo che chiaramente un contratto uno lo legge. Noi quando andiamo a comprare casa c'è il notaio che ti legge il contratto parola per parola. Vabbè, ho capito, però scusami, poi la ciccia del contratto sono i soldi e le cose dei diritti di immagine. Risolte queste due cose, non è che tu fai saltare un affare perché non leggi la clausola C del punto 5 del contratto. Adesso adesso te l'ho romanzata, nel senso che non è che se le leggono tutte 200 alta voce, mancherebbe pure. Evidentemente erano d'accordo sulla cifra complessiva, poi vanno fatte delle aggiustamenti. Cioè, noi parliamo di milioni di euro come se fossero mille lire. In realtà, per fare un contratto del genere ci vuole un po' di tempo. E allora torna a quello che diceva Pier prima: ti piace Soriano? Sì, non, siccome sai che il tuo contratto è fatto così, invece di cercarlo l'ultimo giorno, cercalo il penultimo. Cerchi per discorso. Vero, però come sai, il Napoli ha fatto, come sai benissimo, meglio di noi, Luca. Il Napoli in realtà era su più fronti in contemporanea. Cioè, poi Soriano voleva andare al Milan. Sono tutti su più fronti. Cioè, questa situazione di impasse, il famoso pranzo a Forte dei Marmi fra Ferrero e Galliani c'è stato 10 giorni fa. È chiaro che se ci fosse stato un interesse fortissimo del Milan avrebbero chiuso, però se si tengono mille porte aperte per cercare di strappare e dici, può accadere, come dice Luca, che all'ultimo secondo non fa in tempo. No, ma anche perché Soriano ha aspettato il Milan fino all'ultimo istante, no Luca? Sì. Voleva andare lì. E Mihajlovic aveva chiesto Romagnoli e Soriano all'inizio del mercato. Il Milan non l'ha preso, lui è stato di fatto convinto ad accettare l'offerta del Napoli con la chiacchierata che ha fatto con De Laurenti sui spogliatoi del San Paolo quando hanno fatto Napoli-Samp. Da lì si è incominciato concretamente a parlare. La Samp, con tutto il rispetto per la Samp, che peraltro ha chiuso anche altre operazioni nel corso della giornata, quindi non è che aveva soltanto quella. Cioè, la colpa non è della Samp, stai dicendo? No, sto dicendo la Samp è arrivata a Milano a mezzogiorno, però. Cioè, se tu devi chiudere il mercato alle 11, magari se vuoi vendere Soriano con calma, visto che magari poteva essere anche un interesse della Samp venderlo, magari ti vedi alle 9 di mattina, per dire, cioè, alle volte arrivare troppo a ridosso della chiusura del calciomercato comporta questo tipo di rischi. Non è né il primo né l'ultimo affare che salta per problemi di tempo. Prima ricordavate il discorso di De Gea, è arrivata la mail a mezzanotte 01, non si fa. Sì, d'accordo, però bisogna essere anche un po' flessibili su questa roba qui, dai, cioè, non è possibile. Sì, d'accordo, ma non è che stiamo non è il concistoro che deve leggere il Papa, per cui ci sono dei tempi precisi. Se c'è un accordo. Ma il mercato, scusami, però sono d'accordo con te, però il mercato più aperto un mese d'inverno. Vabbè, d'accordo, però se è questione di 5 minuti, diamo un quarto d'ora accademico. Dai, quarto d'ora accademico. Scusa, secondo me. Prima il calciomercato finiva alle 19, l'hanno spostata e c'erano questo tipo di problemi. L'hanno spostata, ci sono le 23, ci sono ma sempre ci questo tipo di problemi. Perché basta sempre che metti una data, un orario e noi arriveremo sempre a 5 minuti. All'ultimo minuto, all'ultimo matematico. Vale anche per la mia vita, se io sono un appuntamento. Tu arrivi oltre. Io arrivo sempre a un minuto all'inizio dell'appuntamento, anche se parto 2 ore prima, perché se parto 2 ore prima becco traffico. Sì, succede qualunque cosa, lo sappiamo. Certo. Succede qualunque cosa. Vedete, ma è l'Inter che in un. Ma io un voglio, giorno, capire, voglio, no, capire, voglio capire da Luca, però, chi ci ha rimesso di più in questa vicenda, forse tutti quale? Voi, sicuramente. Napoli Soriano. Innanzitutto, Zuniga è andato lo stesso, no? No, non è credo andato. Che sia andato. Non è andato lo stesso. Per cui è un affare in cui ci ha rimesso fortissimamente la Sampdoria, innanzitutto, perché incassava la Samp ieri sera era disperato andare. Disperato no, perché sta molto bene, una bella squadra, però sicuramente avrebbe voluto chiudere la trattativa. Mi risulta assolutamente che la Samp fosse addolorata almeno quanto il Napoli. Beh, certo, perché comunque 13 forse milioni, più. 13 milioni sì, più bonus. Almeno quanto era una perifrasi più, per dire di più. No, 13 milioni più Zuniga per Soriano non era male. Poi con una clausola rescissoria che, correggimi se sbaglio, era di 10. Era 10 pagabili in 2 anni, quindi il Napoli pagava un po' di più alla Samp, anche se in realtà parte di quei soldi sarebbero andati a coprire lo stipendio di Zuniga, che non era certamente basso. Non è certamente basso. La Samp in realtà uno dei due, per questioni di bilancio, correggimi Pier se sbaglio, avrebbe dovuto venderlo. poi lo vende a gennaio. Cioè, tra Soriano e Guardi. Però sai, tra qui e gennaio c'è un po' di differenza, possono succedere tante cose, infortuni, certo. Per carità, non auguriamo a nessuno, però infortuni, che ne so, la squadra che va bene, che va male, cambia l'allenatore, cioè, può succedere di tutto. Sì, è vero, è vero. Tu lo sai meglio di me. Però questa questione di bilanci, uno dei due, tra dice Luca Marchetti, tra Soriano e Del Debbio, allora, la vendono per questione di cassa. Del mitologico, sempre nei miei cuori, presidente Ferrero, è quello di risanare, per usare un eufemismo, di risanare la Sampdoria, cioè di farla diventare qualcosa di appetibile per qualche magnate. È molto semplice il giochetto, ma non è un giochetto, è una cosa legittima, cioè rendere la Sampdoria una roba con meno costi possibili a livello di stipendi di giocatori eccetera eccetera, incassare il più possibile e poi presentarsi, magari si presenta un arabo che gli dà 100 milioni, arrivederci e grazie. Questo è l'obiettivo di Ferrero, nemmeno troppo, come dire, nascosto, dici? Nemmeno troppo nascosto, Pierluigi. A tutta la mia ammirazione. A Sampdoria. Ci può stare questo tipo di prospettiva, insomma, anche se secondo me il giocattolo gli sta piacendo molto, e sappiamo che una delle componenti importanti poi nella scelta di tanti dirigenti e di tanti presidenti è anche una componente di vanità, di centralità e di adrenalina, tanto... sì, ma quando ballano i sordi, amico mio, altro che te frega. andiamo, su, dai, su. Ma magari un posto, sento onorario. Ma che onorario, sì. Ditemi una cosa, l'Inter, io voglio sapere dell'Inter. In poche ore chiude Melo, che stava inseguendo da una vita e mezza, 3 milioni altro e mezzo. Mistero della fede. Sì. Poi prende Telles, che io sinceramente non conosco, giocava nel Galatasaray, lo conosce Mancini, l'esterno basso di cui aveva bisogno, e prende Adam Ljajić al posto di Hernanes. Non lo so, secondo è squadra me, da scudetto adesso. Secondo me si arriva entro le prime. Mancini ha accontentato su tutti i fronti. So se ha accontentato su tutti, perché avrà modo comunque di dire no, io volevo quello invece dell'altro, quello è un rimedio, perché poi Mancini, come dire, da questo punto di vista, io penso che sia, come dire, da una parte la disperazione, ma anche invidiato da molti allenatori, perché ma quando è che lo trovi uno che dall'Indonesia ti dice di sì a cambiare una squadra che lui stesso ha cambiato a gennaio e che lo stesso Toir con un altro allenatore aveva cambiato qualche mese prima. Cioè, un altro, pensa a Zamparini cosa avrebbe fatto al posto di... No, pensa a Mazzarri cosa starà pensando. Sì, no, per cui credo che sia veramente fortunatissimo da questo punto di vista. Se l'Inter arriva tra le prime tre, secondo me, dopo aver cambiato 10 giocatori, è un mezzo miracolo, diciamo la verità. Però oltre al fortunatissimo, lo dico veramente senza ironia, che questa capacità del farsi comprare i giocatori, cioè del convincere i propri dirigenti a fare degli investimenti di un certo tipo, è una qualità, è una qualità che ha Mancini, è una qualità che ha Capello, comunque questa fa parte del gioco. Se a certi allenatori i giocatori non li comprano e ad altri invece li comprano, è perché questi della seconda categoria evidentemente hanno un carisma e una capacità negoziale con i propri dirigenti migliori. Sì, gli fanno scucire i soldi. Luca, però diversi giocatori sono rimasti nella pancia dell'Inter, giocatori che dovevano essere in partenza. Quanto cambia l'Inter con questo mercato? L'Inter, cioè, con quello di ieri? Ma cambia perché aveva bisogno di questi due giocatori, secondo Mancini, e lo hanno accontentato, secondo me, nella maniera migliore possibile per quelle che erano le possibilità dell'Inter. Forse sono andati anche oltre le possibilità. Ricordo che Perisic doveva arrivare con l'obbligo di riscatto, è arrivato definitivo, perché se no non l'avrebbero preso. Quindi l'Inter si è sforzata molto di andare incontro alle esigenze di Mancini. La squadra è completamente nuova, sono d'accordo con Giuseppe, non è facile mettere insieme 10 giocatori, 9 giocatori titolari praticamente al primo di settembre. Se l'Inter vince queste partite come ha fatto, magari soffrendo troppo rispetto a quello che era l'avversario, e si mantiene in alto, la Champions la può prendere, perché nel frattempo Mancini lavorerà, immagino. Però è una bella scommessa, perché è cambiato completamente tutto. Cioè in 6 mesi è stata una completa rivoluzione dell'Inter. Sì, certo, rimangono Handanovic e Icardi. Il portiere e il centravanti, tutto il resto è nuovo, quindi vediamo cosa combina. Ma il miscuglio mi sembra complicato, anche se non credo che alla fine giocheranno 4 giocatori offensivi come leggo oggi sui giornali, perché sarebbe una specie di Napoli dell'anno anche la Roma, a parte che il panorama che state facendo, mi confermo quello che ho detto prima sulla Roma, che se non vince lo scudetto quest'anno non vincerà mai più, però anche la Roma è cambiata molto in avanti, e titolari nella partita con la Juventus vedevo erano tre giocatori completamente nuovi, Iago Falche, sono partiti Salah e Zeko. Anche dietro è cambiato moltissimo, perché alcuni giocatori sono stati venduti, però poi c'è il ritorno di alcuni. Ma la Roma non è cambiata nel settore principale, che poi è quello del centrocampo. o comunque ha mantenuto le sue, i giocatori fondamentali, è lì che si decidono i campionati, è lì che si decidono le partite, cosa che è completamente diverso per tutti, Napoli compreso. È qui la differenza tra la Roma e le altre squadre. Ci fermiamo per la borsa, ciao Luca, grazie. Ciao a tutti. A dopo, ciao. Poi ascoltatori. Ciao Luca. Tutte puttanate. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Allora, tutti convocati con Giuseppe Carucciani oggi, che è star qui in studio. Parlo al telefono senza auricolare, giusto? Sì. Tutto a posto. Tutto a posto. Si sente, si sente. Tutto a posto. Metto il mio timbro, adesso si sente. Metto bolla papà. Ma si sentiva anche prima. No, all'inizio no, all'inizio no. Vabbè, ma ormai è passato. Andrea, Torino, Antonio, provincia di Siena. Andrea. Pronto, buongiorno. Dica. Allora, sono tifoso juventino, voglio dire che la, secondo me la campagna acquisti della Juventus non è malaccio, certo siamo partiti male, ma può dire che abbiamo giocato col 7, l'8, 9, 10, 11 diverso dall'altro anno. È come se ai tempi toglievi Tardelli, Rossi, Platini e Boniek dell'anno prima e mettevi Tavola, Prandelli. No, non è proprio, non è che metti rincalzi, non è che ha comprato dei rincalzi. Ha giocato Padoin all'Olimpico. Sì, adesso, ma in genere. No, no, ma proprio, ma io parlo proprio di cambi di uomini, ho detto, non solo di valori, valore, di valori. Proprio il cambio di uomini, che poi Ampredetti e Dybala, secondo me, sta facendo già bene per quello che vale la squadra. Ma avete notato quando è nato Hernández? Ha 30 anni. Sì. No, il giorno esatto. No, adesso questa non cosa. Questo non me lo ricordo. Me lo dico io, perché ho guardato ieri, perché ho detto metto 30 anni, ho guardato così. Ho detto, 29-5-1985. Cosa vi ricorda? 29-5-85 è una Champions League, sicuramente. Ma che cosa è? Una cosa brutta. Che cos'è? L'Aisel? Vabbè, ho capito. No, ma non dico, però può essere una cosa. Cioè, è nato il giorno dell'Aisel? È nato il giorno dell'Aisel. Esatto, adesso se vogliamo potrebbe anche essere una cosa positiva, potrebbe anche essere una rinascita. Sì, tu lo sai che io terrei questo ascoltatore 20 minuti, no? Qua. Allora, sì, perché, no, perché la malattia è questa. Allora l'ascoltatore ci deve spiegare che correlazione c'è. Che correlazione c'è? Una delle più grandi tragedie della storia. Ecco. No, però è curioso. La correlazione è che lui viene chiamato anche il profeta, quindi potrebbe essere che la Juve vincerà con un gol di Hernández sulla Coppa dei Campioni per cancellare quella brutta Coppa dei Campioni. Ma non lo so, queste sono dei bellissimi collegamenti, però io l'ho preso molto questo ascoltatore. Non lo trattare come pazzo adesso, tu lo stai trattando come un pazzo scatenato, un idiota quasi. Assolutamente no, assolutamente no. Ma tu puoi fare, ti diverte stuzzicarlo. Io dico che secondo me purtroppo quella partita lì vabbè, se non ce fa, il pippone moralista sull'Aisel. L'ha già vinta la Coppa dei Campioni da Juve dopo l'Aisel. Ma questo che c'entra? Adesso l'ascoltatore ha notato unico nel panorama giornalista, tutti i giornalisti sportivi che ci sta, ha notato una cosa curiosa e bisogna dargliene atto. Cioè che Hernández, se non l'ha fatto qualcuno prima, noi non lo sappiamo, è nato il giorno dell'Aisel e poi viene anche chiamato profeta. Questo è fondamentale. Cioè, sono cose molto interessanti. Cioè, essere nato il giorno dell'Aisel per uno che gioca nella Juventus, magari ce ne sono altri che non sappiamo, però credo che sia quasi un segno del destino. Bisogna vedere se questo destino è un destino nefasto, perché uno se andrà male diranno beh, quello figuriamoci, è nato il giorno dell'Aisel, che cazzo poteva fare di più. Ma se va bene ma sai che io le cose esoteriche, la numerologia, però cosa. Scusami, com'è che si chiama questo signore? Andrea. Allora, voglio capire una cosa, Andrea, tu che pensi, che sia una cosa positiva o negativa? Io penso che sia positivo. Hai detto prima. Penso che sia tifoso da Juve. Se non si fosse chiamato profeta, no. Ma essendosi chiamato profeta. Ce lo hanno chiamato profeta. L'hanno chiamato, però comunque profeta, ho detto, profeta vuol dire che hai magari. Hai visto mai che esotericamente. Scommetto che porterà la Coppa dei Campioni con un gol suo. Volevo dire una cosa brutta. Tifosi dell'Inter, immagino. Volevo dire una cosa brutta sui morti, però lascia stare. No, ma una cosa brutta, mica di offesa ai morti. No, un collegamento, però non la dico. Tecnicamente è un bel acquisto. questi aspetti esoterici li lascio al signor Cruzani. No, ma io non so, è lui che l'ha detto, mica l'ho detto io, l'ha scoperto il signor Andrea, non so da dove, da Torino. Da Torino. Città esoterica per antonomasia. In mezzo a tutte queste considerazioni che abbiamo fatto, ci sta anche questo, ci sta anche un signore che ci dice: avete visto la data di nascita di cose? Noi tutti basiti, tutti sorpresi. Siamo noi colpevoli, cioè siamo noi quelli deficitari, siamo noi come dire, che non abbiamo la conoscenza dei fatti. Il signore ci ha fregato, diciamo la verità. Ma sì, ci ha fregato, dai, su. Bravo, provincia di Siena. Facciamo un applauso a Andrea. Facciamo un applauso a Andrea. Applauso Andrea. Vabbè, non lo mandate l'applauso. Non ce l'abbiamo. Questo ce l'ho solo io, dunque lasciatemelo perdere. Antonio, provincia di Siena. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Volevo tornare, se possibile, sul mercato dell'Inter. Sono un tifoso interista. Vai. Niente, volevo fare una considerazione. Ho seguito questo mercato con molta attenzione. Mi sembra che dal punto di vista tecnico la squadra sia sicuramente migliorata, però ho sempre scisso le due cose, da una parte l'aspetto tecnico, dall'altra quella societaria. Mi chiedo dov'è quella società che 4 mesi fa stava attenta, insomma, anche alle spese di ordinaria amministrazione. Un discorso lungo. Mi auguro naturalmente che abbiano fatto bene i conti, anche perché la squadra sembra promettere bene. Volevo sapere cosa ne pensa Cruciani in generale della gestione Toir. No, io piuttosto volevo sapere cosa ne pensa lei della cessione di Hernanes alla Juventus. Ma perché molti interisti non sono contenti. Non che sia andato via Hernanes, perché è un giocatore che contava poco nello scacchiere di Mancini, ma quanto a questo fatto che sia andato comunque a rinforzare la Juventus. Ma guardi, io ero uno di quelli che un anno e mezzo fa ero anche per lo scambio di Vucinic, perché Vucinic secondo me in quel momento serviva all'Inter, quindi la vedo, cioè se poi Hernanes farà bene la Juve, perché i mezzi tutto sommato ce l'ha, è buon per lui, buon per la Juve, ha fatto questo acquisto. Io ho l'impressione che sia stato un acquisto dell'ultimo minuto, un po' forzato quello della Juve, perché non mi sembra che Hernanes abbia le caratteristiche di centrocampista offensivo che voleva Allegri, o me lo auguro anche da interista, insomma una visione laica. Parere di Cruciani, sì. Parere di Cruciani su che? Scusa, dimmi. No, io penso che appunto questa roba di Hernanes, però Inter la dovesse fare in maniera diversa, in qualche modo si lega anche al discorso che faceva prima Marchetti, cioè sul fatto che c'è un minuto che Hernanes un po' di mercato se lo poteva avere anche fuori. Se l'Inter volesse rientrare di questi 11 milioni di euro ci sta pure, ma risolvere un problema alla Juve che il giorno prima aveva subito l'onta di Draxler e della scelta di Draxler di andare al Wolfsburg, beh, insomma, secondo me, mentre la situazione Vucinic-Guarin, che poi è saltata, era uno scambio di opportunità reciproche, no? Qui c'è di fondo una società che ha un problema, e secondo me, ripeto, la Juve con Hernanes lo risolve almeno parzialmente molto bene. Allora, tornerei sul caso Soriano perché voglio divertirmi un po'. Il mercato del Napoli ovviamente non si è concluso, noi faremo ancora qualche innesto da qui al 31 agosto e chiaramente, ripeto, la cosa importante adesso è valutare le uscite. Aiuto allo mercato a cattare un buon decino. Ma buon decino, o buon decino, da Cecerici, quando lo chiamo non vuole venire. Quindi il Napoli sta con il suo direttore sportivo Giuntoli trattando in questi minuti, mentre io vi parlo, Soriano. Potrebbe essere Dalila e Angelo l'aggiornamento decisivo per il trequartista della Sampdoria, potrebbe essere l'incontro che poi porterà alla chiusura di questa trattativa. Aiuto al mercato a cattare noi a Nuzio, ma lui a Nuzio, ma lei a Mina, ma buonicino, o buonicino, ma Cicerici, quando lo chiamo non vuole venire, o buonicino, ma Cicerici, quando lo chiamo non vuole venire, buonicino, mesi, yes! Il contratto di Soriano al Napoli non è stato depositato, quindi Soriano clamorosamente non va al Napoli, perché il contratto non è stato depositato in tempo, né il suo a questo punto e nemmeno quello di Zuniga. Io sinceramente a memoria ricordo pochi casi del genere. C'è chi osserva a proposito di dati di nascita, ma allora Cassano per la data di nascita quanti mondiali doveva vincere? Quando è nato Cassano? Il giorno del 12 luglio 1982. Sì, Girardino che era il 5 luglio, se non sbaglio l'ha vinto, però sì, no, vabbè, questo devo dire che sulla Samp, a proposito di corsi e ricorsi, è la seconda volta che la Samp rimane impigliata all'ultimo minuto, perché era proprio ospite a Tikitaka, che è una delle scene tradizionalmente più divertenti, insomma, di Tikitaka. Fu Ferrero che il 31 gennaio, il 1 febbraio, non mi ricordo, il giorno di chiusura del mercato, seppe direttamente al nostro Ceccarini che l'affare Bergessio Ederson era saltato all'ultimo istante. A un certo punto la telecamera lo catturò mentre stava cercando di parlare col viva voce, senza farsi specchiare, visibilmente contrariato da questa cosa che evidentemente si aspettava che fosse successa. Quindi, vabbè, lì però non è saltato per un contratto non firmato. No, è saltato perché Ederson ha detto di no, però insomma, esatto. Anche lì è saltato negli ultimi minuti. No, più che altro io sul Napoli rifletterei, perché non capisco forse le prime prove deludenti del Napoli, non capisco a cosa poteva servire. Il Napoli è pieno di centrocampisti. No, ma serviva Rugani. Ieri il Napoli ha fatto un sondaggio per Rugani. Ma cosa, esatto, a cosa poteva servire uno come Soriano? Ma sono d'accordo con te. Cioè, perché De Guzman che volevano vendere è peggio di Soriano. Ma sono molti misteri in questo mercato. Allora, facciamo così: dopo il traffico, chiediamo a Sollazzo, a Boris Sollazzo, cosa serviva, cosa sarebbe servito Soriano a Napoli, perché il Napoli non ha preso un difensore centrale, si è arrabbiato come i suoi compagni di fede che hanno appeso cartelloni e manifesti e tazzebao oggi a Castelvolturno. La Sampdoria stava per dare Bergessio alla Lazio e poi prendere Ederson, solo che Ederson ha rifiutato il trasferimento alla Sampdoria ed è saltato anche il passaggio proprio di Bergessio alla Lazio. È saltato Bergessio? Tutti convocati. Convocati. Allora, Giuseppe Cruciani, Pierluigi Pardo, ultimo rush, poi andremo avanti fino alle 3:30 come ogni giorno. Boris Sollazzo, sei arrabbiato? Non me l'aspettavo proprio questa telefonata, lo sai? No, per nulla. Manco per niente, sì. Se ieri alle 11:04 avevo due certezze, che Soriano non era al Napoli e che sarei intervenuto per Radio 24. Regolare. Ti abbiamo risparmiato la telefonata dopo la prima sconfitta con il Sassuolo, pure quella dopo il 2-2 casalingo con la Sampdoria, adesso non potevi mancare. Adesso non esagerare. Io saltavo di gioia, perché sono d'accordo con Giuseppe quando dice che Soriano non serviva a nulla, e quella di ieri è stato un doppio errore, cioè andare su Soriano, un giocatore che ti aveva snobbato in ogni modo possibile e immaginabile, sarebbe andato dovunque tranne che a Napoli, e tu, secondo me, De Laurentiis l'hai cercato solo ed esclusivamente per le pressioni della piazza, perché voleva far vedere che lui il colpo lo voleva fare. E poi il secondo errore è stato ridursi fino all'ultimo, fino a che Soriano alle 22 da Coverciano ha mandato l'ennesimo contratto con le ennesime modifiche firmato, e poi ci sta che succeda quel che è successo. Voglio dire, volevamo una società a livello di Real Madrid e Manchester United, adesso ce l'abbiamo, visto che pure Real Madrid e Manchester United hanno fatto la stessa cosa con De Gea. Può succedere, ovviamente, se succede a Napoli, questo diventa regolarmente un caso, diventa un motivo di presa in giro. Certo, non ci fanno una grandissima figura. Ma chi ha preso in giro il Napoli in quanto perché è successa questa cosa in quanto Napoli? Nessuno, dai, su. No, ma non ne faccio una cosa razzista, nel senso proprio la società, i diritti d'immagine, tutto questo, il tipo di modo di gestire le trattative di calciomercato, che è atipico. A mio parere, Napoli è più professionale di molte altre società e di tutto il sistema calcio, perché a me sembra folle. Adesso non lo dico perché sono coinvolto io, perché ringrazio questo sistema per avermi risparmiato Soriano, e anzi faccio un appello ad Aurelio Della Rentis: non si sogni di prenderlo a gennaio. Ma il punto è che mi sembra folle che con un limite alle 11 di sera, che poi anche quello è un limite piuttosto bizzarro, non si possa depositare una bozza di contratto. Io ricordo grandi direttori sportivi che raccontavano di aver messo dentro una busta da consegnare in Lega il disegno del proprio figlio per poi andare il giorno dopo senza problemi a sostituire la busta. Ma sì, sì, dai, sì, basta, va, mandare qualcosa, poi alla fine non è, vale, che anche il contratto di Milito, no, sopra la porta, no, ma ne abbiamo, non ne abbiamo, ti annulla, no, il contratto, però, evidentemente, però, c'è, scusate, stato Napoli, c'è Napoli ha una sua lentezza proprio peculiare, e io sono d'accordo con Boris, bisogna considerare quando a Napoli c'è grossa critica sul fatto che ci sono queste trattative di diritti di immagine, che Napoli è un po' lento, il famoso Catastori, il caso Gonalon è passato. Bisogna sempre considerare poi che questi diritti di immagine qualcosa rendono al Napoli, quindi bisognerebbe vedere i bilanci per capire poi quanto è il beneficio economico che su controbilanci col fatto che sei un po' più lento in fase di mercato. Però il Napoli questa lentezza ce l'ha, veramente. Beh, Pierluigi, Pierluigi, basta pensare che il motivo per cui il Napoli si può ancora permettere Higuain è che si è preso metà dei suoi diritti d'immagine e quasi se lo paga interamente con quella metà dei diritti d'immagine. Poi a me fa molto ridere che per un calciatore sembra strano che si facciano contratti di 30-40 pagine quando per comprare una casa serve un contratto dello stesso tipo, e lì parliamo del passaggio di un essere umano con tutti quanti i diritti connessi. Il problema è aver cercato di prendere un giocatore che non aveva voglia di venire, l'ho dimostrato alle 10 di sera, io ieri su Giornalettismo ho postato su Facebook che Soriano sta saltando alle 22:20, non è che ho doti da profeta, semplicemente sapevo che doveva arrivare la firma, avevo le mie fonti che mi dicevano che quella firma doveva arrivare, nel momento in cui dopo mezz'ora questa notizia non mi arrivava avevo capito che se sì, ma al di là di Soriano mi devi spiegare perché sono stati rifiutati tanti soldi, forse più di quelli che ha pagato il Milan per Romagnoli, per i quali il Napoli aveva fatto un'offerta, ripeto, superiore a quella del Milan, perché la Juventus ha rifiutato 20 milioni per Rugani. Forse sono stati inseguiti i giocatori sbagliati? Sono stati sicuramente inseguiti i giocatori sbagliati, ma il problema è anche che a Napoli la maggior parte dei giocatori che vengono contattati non ci vogliono venire. Conta loro, io li inviterei a vedere quanti giocatori che stanno a Napoli non se ne vogliono andare, De Guzman per primo, quindi o quanti tornano come è successo a Pepe Reina, però molti per pregiudizi, perché magari non pensano che il Napoli possa crescere più di tanto, non vogliono venire. Romagnoli ha voluto il Milan, Soriano ha voluto il Milan, è stato contattato pure Benatia. Il punto è che mi sembra che il giudizio, io oggi ho visto sulla Gazzetta un 5 al Napoli. Ora, se a giugno avessero detto il Napoli si tiene tutti quanti i giocatori, pure troppi, perché io al Biolla e Calleon l'avrei venduti, si tiene tutti quanti i giocatori, la tanto lodata Inter ha venduto Kovacic, per dire, si tiene tutti i giocatori, in più arriva Reina, arriva Allan, arriva il capitano della nazionale rumena che è Chirikes, avremmo detto che sarebbe stato un calciomercato straordinario. Il 5 è un voto ingiusto, Napoli non ha fatto questo mercato. Il Napoli paga in questo momento, oltre a me, in questi diritti di mercato c'è anche un po' di effetto psicologico di questa fase, no? Per cui un pochino questa cosa incide nella percezione che io sinceramente, Pia, non sono così convinto che i giocatori non vogliono andare a Napoli. Tu, Giuseppe? Allora, io questo non lo so, può darsi, se lo dice Boris ci credo, cioè, ma perché Boris, ormai Napoli è stabilmente nell'elite del calcio italiano. La cosa è questa, che piaccia o meno, Benitez dava un'altra dimensione al Napoli. Poi si può discutere, magari Sarri è tecnicamente più preparato di Benitez, ha meno fisse, meno cose, ce l'ha pure lui le fisse, Sarri sicuramente, forse più di Benitez, però sicuramente c'era un'altra prospettiva, cioè se devi andare in una squadra, parlo di un giocatore di livello internazionale, in cui c'è Benitez allenatore o Sarri allenatore, beh, un po' di differenza la fa, su questo non c'è dubbio, questo è abbastanza inevitabile. Poi ha ragione Boris nel dire, ha confermato tutti i giocatori, bisogna vedere se quelli che sono rimasti convinti, cioè sono rimasti convinti oppure sono rimasti semplicemente perché prigionieri dei contratti, come io temo nel caso di Higuain, come nel caso di Higuain o di altri ancora, cioè perché comunque i contratti, giustamente nel Napoli sono contratti molto blindati, ci sono i diritti d'immagine, ci sono delle rescissioni molto alte, ma come è giusto che sia, per cui non è che sia necessariamente un bene aver confermato tutti, bisogna vedere con quale spirito rimangono i giocatori. Ma Giuseppe, però tu non puoi chiedere per Maximovic 25 milioni di euro, è una follia. E, poi, no, e poi magari un De Bruyne va al Manchester City per 74 milioni di euro, però al Napoli per Higuain ne offre 40, cioè è prigioniero della sua quotazione di mercato, è prigioniero dei suoi errori, non è certo prigioniero del Napoli. A De Laurentiis ha dimostrato che se gli fai una buona offerta i campioni li lascia andare, non tiene nessuno contro voglia. Io non ho sentito una dichiarazione di Higuain e neanche del fratello che diceva che il fratello procuratore che diceva che non voleva rimanere a Napoli, anzi il fratello si è lamentato che De Laurentiis non se lo coccolava abbastanza, cioè che De Laurentiis se lo snobbava. Io adesso non so se non sapremo mai se se ne voleva andare, se non se ne voleva andare, eccetera eccetera. C'è un accordo, c'è come per Lavezzi o Cavani. L'elemento che volevo sottolineare è un altro: il Napoli ha scelto una strada inevitabilmente con Sarri, che è quella di un certo ridimensionamento, rispetto alla strategia precedente. Questo qua, dal punto di vista, come dire, dei tifosi, mi sembra abbastanza chiaro. Poi è chiaro che se avesse vinto due partite su due sarebbe tutto un altro discorso. Però, ma a livello di rosa, il Napoli è più forte di quello dell'anno scorso, ha più giocatori. Non lo so, ma non vuol dire nulla questo qua, però, Boris. È più forte. Ma non vuol dire, a parte che non è vero, a parte che per me non è vero che il portiere è più forte rispetto a prima. Secondo me no. Reina è più debole di Rafael. Ma no, Rafael, l'altro che c'era prima, Andukar. Non lo so, ma Reina mi sembra pure che i suoi pasticci li fa pure lui, non ti credere che non faccia pasticci. Cioè, pasticci sì, li fa anche carità, è un giocatore vecchio, che, insomma, vuol dire, stava al Bayern Monaco, non ha giocato manco un minuto. Era riserva a Bayern Monaco. C'aveva Neuer davanti. Ma ho capito, ma era riserva a Bayern Monaco. Non era ambito, cioè non era ambito da tutti i club europei, Reina. Non è venuto a Napoli perché era, come dire, c'è stata un'asta per Reina. È un buon portiere, punto e basta. Non è che un portiere nettamente superiore a quelli che prima, un portiere. Beh, la tanto lodata Roma aveva provato a far venire Reina, l'ha detto proprio lo stesso Reina, l'ha confermato Sabatini. A me non pare una squadra rafforzata, a me pare una squadra che è uguale a quella dell'anno scorso, con molti punti interrogativi che riguardano Sarri e riguardano soprattutto la convinzione dei giocatori di essere rimasti a Napoli. Questi sono i punti interrogativi, che non sono pochi secondo me. Vabbè, discussione interessante, ma saluto tutti quanti. Ciao Giuseppe Cruciani, ciao Pierluigi Pardo, ci sentiamo domani naturalmente dopo il giro delle due. Ciao Boris Sollazzo, Ruggero e Marco, state lì. GR. Di che cazzo stiamo parlando? Tutti convocati. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30. Solo su Radio 24. Questo non credo. Tutti convocati. Convocato Ruggero da Piacenza, convocato Marco da Bologna, grazie dell'attesa. 800 24 00 24, insieme fino alle 3:30 come tutti i giorni. Ruggero, buongiorno. Buongiorno dottore. Gradirei un'informazione a livello fiscale, no? Allora, l'Inter un anno abbondante fa ha comprato Hernanes per 22 milioni, sono davvero. Adesso lo vende a 11 alla Juventus. Un po' meno, non, vabbè, non 20, sembra... 20 va bene? 21? Non so, vabbè. Comunque, intorno ai 20, ok? Lo vende alla Juve a 11 e ieri il cronista di Sky, ieri sera di sera, così facendo per le minusvalenze l'Inter non ci rimette niente. Me la spiega questa cosa, perché non ci rimette niente? Allora, facciamo così, Ruggero, dato che abbiamo un appuntamento domani con Marco Berinazzo che scenderà dal Sole 24 ore e dato che ci sono molti argomenti di cui discutere, questo è uno, cioè il mercato dell'Inter faraonico, l'ascoltatore di prima domandava, ma sti soldi, l'anno scorso c'era un tollino, adesso si spendono 100 milioni per il mercato, sarà solo l'effetto Mancini? ci sono molte discussioni su quanto ha speso il calcio italiano, perché era dal 2001 che non vedevamo uscire dalle casse dei club italiani 600 milioni di euro, ma non eravamo poveri in canna. Insomma, ci sono molte questioni di cui dibattere. Domani Marco Bellinazio, che di queste cose sa tutto, ci illuminerà. Marco Bologna, buongiorno. Salve, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Niente, io ponevo un quesito sia sulla regolarità del campionato che sul modo di fare del solito interesse verso sostanzialmente i cittadini / tifosi. Mm. Nel senso che continuare a fare il mercato a campionato già iniziato, secondo me, è una follia totale, abbinato al fatto che oltretutto gli allenatori non hanno né la squadra pronta, e secondo me questo è anche uno dei motivi per cui ci sono molti infortuni, perché una volta si andava in ritiro, si faceva il ritiro, finiva il mercato, si iniziava il campionato e stop. Questo secondo me è una follia. No, ma anche a me non piace. Non piace nemmeno a me. Ormai i tempi in cui si andava in ritiro in montagna a ossigenarsi, si faceva la preparazione, eccetera eccetera eccetera, le amichevoli con la Cavalese, con queste squadre dilettanti, con squadre più deboli che battevi 11-0, questi tempi non ci sono più, soprattutto per i grandi club che vanno in giro per il mondo a fare quattrini. Però anche a me non piace il mercato aperto fino alla seconda di campionato, ma è un problema generalizzato, non è certo un problema solo italiano di regolarità del campionato italiano. Il mercato inglese è ancora aperto, mi sembra che chiuda alle 19 di oggi, quello spagnolo è finito alle 18 di oggi, quello spagnolo è finito ieri sera, tra l'altro con un pasticciaccio di cui adesso sul quale adesso ci divertiremo, io credo, perché mi sembra che Soriano is nothing rispetto a quello che è successo a Madrid. Però a proposito di Spagna, voglio farvi sentire una cosa. Por Cavalero sale, mette il cross, Kalinic si stacca da Glick e poi Marcos Alonso. Due giornate e due gol per lo spagnolo, 1-0 Fiorentina. Oh, Torero. Un gesto per un mio amico torero spagnolo che non è in un buon momento, e voglio solo chiedere scusa alla tifoseria del Toro che non è stato un gesto per loro, e so anche del gemellaggio con i nostri tifosi, quindi solo vi faccio auguri per i tre punti e ci vediamo a Firenze. Torero, torero, olé. Poi il Torino si è preso la sua rivincita battendo la Fiorentina, e il gesto del Toro di Marcos Alonso è stato spiegato così, anche se non tutti erano d'accordo. Ad esempio, non era d'accordo Joaquin, che ieri è tornato a casa. Hai visto il gesto che ha fatto ieri Alonso? Il sì. Alonso era dedicato a te? Sì, era dedicato a me, per il momento mio, no? Però mai per il tifosi del Torino. Se capisce che lui è come un fratello mio, allora l'ha fatto per me, no? Filippo Maria Ricci, ieri Joaquin finalmente si è messo una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio, reducendosi l'ingaggio, ed è tornato a casa. Il calcio ancora da libro si regala ancora qualche pagina sentimentale, con buona pace dei contratti firmati. Non penso che ovviamente, no? Non penso che in Spagna si sentisse sì. Vuole tornare a casa, va bene. Vuole tornare a casa, vuole tornare al Betis Siviglia, agli sì. Anni che ha a Firenze hanno fatto di tutto per trattenerlo, però non c'è stato verso. C'è grande illusione, come dico, grande speranza. Mi è piaciuto molto questa l'idea di avere. È la seconda storia, se vogliamo, un po' familiare, sentimentale del Betis, perché al Betis è arrivato anche Van der Vaart. Sì. Uno dice: questo è olandese, che c'entra? Perché c'è il nonno di Ciclana della Frontera, che è un paesino vicino Siviglia, insomma, vicino Cadice in realtà, comunque è un paesino dell'Andalusia. E quindi a Van der Vaart voleva andare a giocare nella terra del nonno. Non è male, adesso non ha ancora toccato palla, però insomma i sentimenti ci sono. Ha ancora strusciato palla, ma i sentimenti ci sono tutti. Intanto in Italia si è speso di più che in Spagna in questo mercato, nonostante Real Madrid, Barcellona, eccetera. Però ieri, come sai, da noi Soriano, il fax che non funziona, è lento, non c'è tempo di mandare il contratto, non l'ha letto tutto, non poteva leggerlo tutto. Oggi su tutti i giornali c'è Fatta De Gea, il nuovo portiere del Real Madrid, 30 milioni più Keylor Navas, Keylor Navas dappertutto. No, non è così, No. Adesso ha mandato appena, finalmente, che ora sono tipo le 3, vabbè che qua in Spagna si fa tutto con una certa calma, diciamo verso le 2:30, il Real Madrid ha terminato di stilare il suo comunicato ufficiale in 9 o 10 punti, adesso non ricordo, in cui spiega quello che è successo ieri. Una spiegazione che era davvero danno la colpa al Manchester United, dice noi abbiamo fatto tutto bene, c'è questo lasso sicuramente sospetto tra l'arrivo dei documenti del il Madrid manda i documenti in Inghilterra, fai conto, in tarda mattinata, e il Manchester glieli rimanda firmati dopo 10 ore. Sì, avevano altro da fare. Accettando, quindi insomma lì c'è stato qualche problema, perché questa storia ha vari elementi. E allora, ovviamente il Madrid fa una figuraccia, però viene il sospetto che da Manchester non siano stati diciamo solerti, mettiamola così, e non si spiega ma stavano prendendo un giovanotto di 19 anni tale Martial per soli 80 milioni. Hai visto la prima pagina dell'Equipe? Sì. Più caro di Zidane, più caro, certo. Gran titolo, dai, lì sono sbattono i soldi, cosa vuoi che sia la storia di De Gea, avevano altro da fare, no Filippo? No, allora io dico questo, De Gea vuole tornare, anche lui vuole tornare a casa, o meglio, la fidanzata, soprattutto Edurne, la grande cantante, vuole tornare a casa, benissimo. E si svincola l'anno prossimo, quindi va via gratis. Anche lì, anche il Manchester, io lo so che Van Gaal è un uomo di principi e piuttosto tosto nelle sue maniere, però se mettessero d'accordo, se ne parla da 3 mesi, arrivare all'ultimo giorno, appunto. È patetico. Se mettessero d'accordo, lo vendi per 20-25, comunque hai fatto il tuo bel affare, perché l'anno prossimo se ne va gratis. In più lo lasci, ti prendi Keylor Navas, che è sicuramente meglio del Chiquito Romero, che qui è stato in Italia 2 anni, non ha mai giocato, un motivo ci sarà, no? Non è che alla Sampdoria sono pazzichi, e lo stanno vedendo adesso in Inghilterra, quindi si ritrova il Manchester United ha 4 portieri, di cui 2 spagnoli fuori rosa, sì. Però comunque con ingaggi importanti e tutto, e il titolare Romero che non sembra all'altezza. E qui invece si sono tenuti almeno un portiere decente, che è Keylor Navas. Certo, non sarà contentissimo, perché non è che l'hanno trattato molto bene, però fanno tutti un po' una figura bambina. Tanto lo United come il Real Madrid, perché allora lo United dice: guarda, niente, questo sta tutto l'anno in tribuna, non ve lo vendiamo, e va bene, rinunciamo, come fece un po', se vogliamo, l'Athletic Bilbao, rinunciò ai soldi della Juve a gennaio, no? Ti ricordi? Sì, certo. E poi lasciarono Llorente sempre in tribuna, in panchina, e poi lo mandarono via gratis. Sì. No, questo è un altro mistero buffo su Llorente, che non ho ancora capito. La Juventus che rescinde il contratto e lo fa andare via. Vabbè, costava tantissimo un panchinaro, non puoi dare quasi 5 milioni di ingaggio a un panchinaro. Sono d'accordo, ma il contratto l'avevano firmato loro, e comunque credo che potesse avere un minimo di mercato, no? Uno come Llorente. Beh, sì, forse non con quello stipendio, quello stipendio è un po' altino, infatti è andato via gratis. Però io, più che dire che Llorente poteva avere mercato, però Llorente poteva ancora avere un po' di spazio. Non sono così addentro alla questione juventina, però è un giocatore che ancora può. Tra Mandžukić, Morata, poi ora hanno preso Cuadrado e ora hanno preso Hernanes, sono overbooking lì davanti. Comunque, insomma, lì hanno, alla fine, secondo me. E se lui voleva mantenere quello stipendio, qui si è abbassato, però vabbè, l'ha spalmato 3 stagioni, poi si è preso qualcosa alla firma. Se lui comunque puntava i piedi, va ancora 2 anni di contratto su quello stipendio che comunque gli aveva garantito la Juve, venderlo era difficile. Sì. Però vabbè, insomma, questa storia di De Gea è meravigliosa. Qua poi sai, è la Casablanca, per cui no, c'è grande enfasi, no, ma adesso tutti che la difendono, cioè i madridisti che difendono, no, ma non hanno sbagliato. Cioè, se tu ci pensi bene, qua stiamo parlando di calcio ai massimi livelli, sì, e sì. Grandi soldi, grandi manager, e poi ridursi così fa un po' ridere. Secondo me è colpa di Benitez, guarda un po'. Sempre colpa di Benitez. Grande, con la storiella di Esopo, hai visto, ho ritirato fuori l'asinello. Sì, sì, sì, sì, sì. Ho trovato, l'ho trovata lì. Cioè, quindi adesso abbiamo la Italian version, no? Della versione dell'asinello fatta prima partita con l'Arsenal. e adesso abbiamo anche la Spanish version. Allora, raccontano un attimo agli ascoltatori meno attenti. Praticamente c'è questa, sì, la favola vuol dire qualsiasi cosa tu faccia, esatto, la prendono con te, perché c'è, no, la favola si chiama Il contadino, il figlio e l'asino. Praticamente passa l'asino scarico con il figlio e il contadino, e uno gli dice: ma scusa, ma c'hai l'asino, vacci in groppa. Allora dice: benissimo, ci va il padre, dice: ma no, ma scusa, ma mettici tuo figlio, poveretto, ve lo fai camminare. Ci mette il figlio e dice: ma no, ma perché non ci va tuo padre, poveretto, che è anziano. E dice vabbè, ci mettono sopra tutti e due, ma povero asino. Se qualsiasi cosa tu faccia sarai sempre criticato. Senti, intanto, questa è una versione rapida, versione punk della questa favola, versione, il bigino, il famoso bigino della versione della storiella che riguarda Benitez, pattuglia italiana che si arricchisce di un ragazzino. Oh, Bonera è arrivare, anche Bonera, ho visto. Anche Bonera è arrivato. Bonera, Reale. Piraghi, Bardi, Verdi, Piccini, Immobile. E poi attenzione, il grande Rolando Bianchi in Serie B a Maiorca. Ce n'è uno che gioca titolare. Allora aspetta, il Piraghi ha giocato titolare, Piccini, sì, titolare, sì. Bardi non fa panchina, Verdi non ha ancora debuttato, Immobile è finita addirittura in tribuna, e qui se poi ne parliamo, e Bonera vedremo. Aspetta, poi è arrivato anche Andreolli. Certo, è arrivato anche Andreolli, che comunque è un discreto mercato. Vedremo, insomma, per ora è un paio che sono titolari, Piccini l'altro giorno, non so qual Bernabeu. L'ho visto bene in attacco, un po' meno in difesa, hanno perso 5-0, però lui, insomma, piace lì al Betis. E di questi tempi prenderne 5 da Real Madrid non è facilissimo, visto che non si chiama mai Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ancora inchiodato al palo, colpa di Benitez naturalmente. Con buon potenziale. Chiaro. Immobile invece? Sono giorni di nazionale. Conte ha detto che chi non è titolare nella sua squadra non può giocare in nazionale. Immobile va in tribuna, vedi tu. Sì, è finito addirittura, perché allora, tanto, sì, prima era riserva di Gameiro, che l'anno scorso era la riserva di Bacca. E vabbè. Adesso è arrivato Llorente, sono scalati tutti in una posizione, per cui Gameiro dal campo alla panchina e il povero Immobile dalla panchina alla tribuna. Spero, io non so, avevo l'idea che potesse far bene, che insomma, che Siviglia è la piazza ideale per ricrearsi, e vieni da Dortmund, arrivi a Siviglia, ti vogliono bene, ti trattano bene, secondo me, vediamo, io spero che ce la faccia, perché sennò insomma è comunque un patrimonio del nostro calcio, non è che abbiamo tutti questi attaccanti, però certo l'altro giorno è stato un po' un brutto colpo. Adesso vediamo adesso c'è la pausa, poi vediamo dopo la pausa, sperando che si rimette e possa giocare, perché insomma certo, si comincia almeno in panchina. Sì, in tribuna, dalla tribuna è difficile far gol. Filippo, un'ultima cosa, allora, appurato che l'astinenza calcistica di Cristiano Ronaldo, perché non credo ne abbia delle altre, è colpa di Benitez, quella di Messi è colpa di Benitez, giusto? Certo, sempre così, sempre colpa di Rafa. E attenzione, non era mai successo che questi due non segnassero insieme per due giornate consecutive, Incredibile. Non per 5-10, no, per due. Incredibile. Tanto Messi l'ho visto sbagliare un paio di gol che per lui sono una barzelletta. Poveretto, adesso va anche in Argentina, lo tratta male, poveretto, tornerà distrutto. Tanta colpa di Benitez, lo sappiamo perfettamente. Certo. Grazie Filippo. Ciao cari. Un abbraccio ciao, Filippo, ciao. Maria Ricci. Luigi da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ho sentito con molta simpatia, ho ascoltato da un pezzo e ho sentito che c'è da voi Cruciani. No, adesso è andato di là. Non ho capito, l'hai detto? Adesso è andato di là, sta preparando la zanzara. Dico, ma guardi che Cruciani è esperto di tutte altre cose. Sì. Sì, è un po' triviale, un po' kitsch, un po'. Non me l'immaginavo esperto di calcio. No, di calcio, di calcio, di calcio. Per lui è tutto un altro problema. Grande appassionato. Grande appassionato, grande. No, le assicuro io che. Insomma, conosco Giuseppe Cruciani da mio amico da quando c'è questa radio, 17 anni. Come? Tutto un altro tipo lui, ognuno è il tipo che è. Mi dispiace avervi disturbato, grazie. Ma non ci ha disturbato affatto, Luigi, non ci ha disturbato affatto, anzi, le do appuntamento per la zanzara di questa sera. Ah, tra l'altro, per quanto riguarda il mercato, c'è chi scrive della Fiorentina, Blasikowski, non l'abbiamo nominato, ma è certamente un gran colpo se recupera, perché era uno dei protagonisti del Borussia Dortmund dei miracoli di Klopp, ha avuto diversi problemi fisici, è arrivato alla Fiorentina e secondo me, ripeto, è un gran bel colpo. Madre alla Lazio serviva come il pane, ma anche questo si sapeva. E poi c'è questa storiera di mercato molto divertente. Cosimo da Milano, la vuol sentire? Sì, certo, sono qua. La sa quella di Buchel? Marcel Buchel austriaco? La sa? No? No, non la so. Gli racconto io. Praticamente Saponara aveva messo il veto sul passaggio di questo giocatore all'Empoli. Perché? Per problemi di donne, Buche, l'inodore di un passaggio in azzurro già da giorni, avrebbe contattato tramite Instagram, perfido social network, l'attuale ragazza del trequartista empolese. E Saponara, che è la stella dell'Empoli, ha detto: con il cavolo che io voglio questo giocatore. Poi si sono evidentemente chiariti e Buchel è arrivato all'Empoli. Poi vedremo la prossima puntata. Cosimo, è piaciuta? Sì, benissimo. E poi ci chiediamo come mai Saponara non è esploso al Milan. Vabbè. Una considerazione al volo sul mercato del Milan: sono milanista da 40, ho 56 anni, milanista da 45 almeno. Sì. Propongo una modifica di un luogo comune giornalisticamente interessante, quale i tre giorni del Condor. Trasformerei nei tre giorni della Iena. La Iena, che come sempre, come caratteristica, è evidence. Perché l'affare anche quest'anno, il signor Galliani, perché fino a quando in Italia la laurea è un amore legale, il signor Galliani è il signor Galliani, l'affare l'ha fatto straordinario. Si può dire, adesso, ma non è una richiesta retorica la mia, si può dire magliaro di qualcuno senza che si offenda? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui, ma è così penoso secondo lei il mercato del Milan? Secondo me sì. Ma... nel senso che secondo me sì. Allora, il nostro allenatore, che speriamo che funzioni bene, perché per me è importante che si lanci bene e vinca a prescindere da chi lo allena, e comunque Mihajlovic mi piace, aveva chiesto due giocatori, Romagnoli e Soriano, e l'altro non è arrivato. Vabbè, oggi guardiamo che l'attacco è esplosivo e devo dire che Luis Adriano, che è arrivato un po' in sordina, mi sembra cioè, tendenzialmente mi piace più di Bacca, che comunque mi piace, sì. La difesa con Romagnoli, che hanno detto che è più bravo di come era bravo il grande Alessandro Onesta quando era giovane, ma non esageriamo, lasciamo che cresca e quindi va tutto bene. Nelle prime due partite la pecca notevole è che siamo in balia degli altri, perché il centrocampo non esiste. Aveva chiesto un giocatore che non so neanche se è così bravo, attenzione. Sì, io Soriano è un buon giocatore, ma non lo vedo come quello che ti cambia tutto quanto. Ci sono diverse incongruenze del centrocampo del Milan, ad esempio bisognerebbe capire anche Montolivo quale fine ha fatto, sta stabilmente seduto in panchina. Bertolacci, che Gigi Del Nero addirittura ha paragonato a Pirlo, diciamo che deve ancora crescere. Milan anche l'anno scorso aveva una pecca evidente nella qualità del centrocampo, mi sembra che non abbia risolto tutti quei problemi. Abbiamo un minuto per tornare in Spagna da Pier Augusto Staggi, perché c'è stata la prima vittoria italiana alla Vuelta. Ciao Pier. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Com'è andata? È andata molto bene. Ieri questo ragazzo Cristian Sbaragli, 25 anni, di Castel Fiorentino in provincia di Empoli, ha colto la vittoria più importante della sua carriera, che è la terza vittoria che ha vinto al primo anno di professionismo, una tappa e una cronosquadra al Giro di Corea. Devo dire che non è che nasce dal nulla, questo qui è uno dei tanti ragazzi che sono dovuti andare a correre all'estero. Lui corre per la NTN Quebec, una formazione sudafricana che quest'anno è stata invitata al Tour e anche alla Vuelta, perché non è una formazione di prima fascia ma di seconda fascia, quindi ha bisogno della wild card. Si stanno muovendo alla grandissima. Lui è l'unico corridore italiano, devo dire, che ha trovato la squadra per puro caso 3 anni fa, perché non trovava assolutamente l'ingaggio. Sempre stato un buon corridore, ma poco apprezzato dagli osservatori. Devo dire che all'epoca c'era Brent Conrad, oggi invece è il team Lampre, che lavorava per l'MTN. Loro avevano il magazzino in Toscana, che era il centro nevralgico per poi smistare biciclette e fare attività in Europa, e questo ragazzo era lì a portata di mano. E ha avuto l'intelligenza, l'ha visto pedalare in qualche allenamento e ha detto: scusa, ma perché non viene a correre? Viene a correre da noi, e ieri, prima vittoria in carriera. Ha fatto veramente un'incetta di piazzamenti e di piazzamenti, ieri ha fatto un volatone eccezionale. Faccio fatica a sentirti, Pieraluso Stagi, la maldizione dei telefoni, ma tanto ci sentiamo nei prossimi giorni, perché domani c'è un tappone nel quale ad Andorra aspettiamo Aru. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Giovanni Melchiorre in redazione, tutti convocati domani alle 14. Ciao, aiuto.